quarta puntata di Coccoli al Silicio, speriamo sia la volta buona, penso che sia almeno la decima volta che registro questa puntata, mannaggia a me e a quando ho deciso di parlare di questo argomento, però d'altra parte mi toccava, nel senso che mi sono accollato di fare questa storia del pensiero scientifico a partire dal positivismo in avanti e purtroppo, maledizione a loro, intorno a metà dell'Ottocento una delle cose che è accadute è la nascita delle geometrie non euclidee, un argomento non banale però interessante da trattare per sempre come diciamo un po' il mantra di tutta questa trasmissione. È interessante vedere come i cambiamenti di paradigma del pensiero scientifico spesso siano dei rivolgimenti di pensiero che buttano tutto all'aria, poi in realtà non lo buttano mai tutto all'aria, semplicemente lo sviluppano, però vanno a far crollare dei sistemi di pensiero che poi si traducono anche in pensieri filosofici e vedremo nella storia delle geometrie non euclidee la filosofia ha in parte il suo peso. In particolare è interessante questa storia delle geometrie non euclidee perché essenzialmente Euclide ha fatto scuola per più di 1000 anni. Ecco, cioè noi fino a metà del 600 più o meno, cioè, a noi andava bene tutto quello che Euclide aveva detto ed Euclide era uno vecchiotto, cioè era uno dell'antica Grecia, mica un pischello qualunque. In realtà il suo trattato era probabilmente una summa del pensiero geometrico, matematico, diciamo di allora, non era diciamo tutta farina del suo sacco, ma lui aveva avuto la buona idea di riassumere tutto questo sapere e sistematicizzarlo. E così ci è stato tramandato per un sacco di anni e la maggior parte delle cose che dice in realtà valgono ancora adesso nei sistemi euclidei. E poi però qualcuno, a cipicchia, mannaggia lui, ha iniziato a pensare che c'era qualcosina che non andava troppo. E nello specifico, in realtà questa cosa è nata non tanto per questioni scientifiche, ma per questioni quasi inizialmente molto, molto pratiche, nel senso che la geometria euclidea si basa essenzialmente su ciò che vale in un piano. Ecco, però c'era il fatto che la nostra terra piatta non è e quindi c'erano alcune cose che non tornavano esattamente uguali. La prima volta che ci si allontana un pochino dalla geometria non euclidea, in realtà è per una questione molto molto molto pratica che riguardava la navigazione. Cioè, sulle distanze brevi la terra sostanzialmente è quasi piatta e le sue caratteristiche, diciamo, fisiche sono abbastanza ben rappresentabili su un piano. Quando però le navi partivano e facevano dei viaggi belli lunghetti, bisognava tener conto della forma reale del pianeta e se no non tornavano più i conti, cioè quando io guardavo la nave all'orizzonte quella dopo un po' mi spariva e quindi se io facevo tutti i conti come se fosse tutto piatto, volevo andare da una parte e finivo da tutt'altra. E questo era stato il primo obiettivo, però sembrava solo un aggiustamento un pochino alla geometria non euclidea, poi alla fine valeva praticamente tutto. E un'altra cosa che però ha messo diciamo, la pulce nell'orecchio a qualcuno è stata invece questa volta legata all'arte e in particolare si tratta del... saltiamo, facciamo un passo, in realtà ora non stiamo parlando di metà dell'Ottocento, stiamo parlando di molto prima. Nel Rinascimento nasce un po' quella che loro non la chiamavano ancora così, però noi oggi la chiamiamo così, la geometria proiettiva, cioè si inizia a disegnare le cose secondo le regole della prospettiva. E nella prospettiva, in realtà quello che noi facciamo, se vogliamo tracciare ad esempio una strada, è a un certo punto le due parallele per rendere l'idea che sono parallele, in realtà le facciamo incrociare laggiù, laggiù, laggiù in un punto, cioè mica le facciamo dritte, dritte, se no non rendono bene. D'altra parte, anche se noi ci mettiamo all'inizio di un'autostrada e guardiamo, ci sembra che a un certo punto la nostra corsia si stringe laggiù all'orizzonte e così hanno iniziato a rappresentarla anche nel Rinascimento. In particolare, se leggiamo un libro che trovate anche in rete, è interessante anche da leggere. Io ci ho provato, ma non ci sono riuscito troppo, se non per diciamo nella comprensione è un po' complessa, però si può apprezzare tantissimo il lessico, che secondo me è la parte più interessante del libro, nel senso che tutto il resto lo trovate spiegato in maniera più facile su altri testi. Però se volete apprezzare il lessico del signor Leon Battista Alberti, secondo me è molto interessante cercarsi il suo libro della pittura, che trovate anche riportato online gratis, addirittura senza copyright, in fondo è un'opera del 1435, e quindi cioè, che copyright ci devi dare? Comunque, insomma, ve lo trovate e potete apprezzare quello che si dice. In realtà si tracciano sostanzialmente l'inizio della geometria proiettiva, in cui si spiega come fare a rappresentare la realtà su un quadro, e questo però pone alcune questioni. Cioè, in particolare, quella che a noi interessa più di tutte è che appunto il parallelismo nella geometria proiettiva non è esattamente confacente alla geometria euclidea. Però poteva essere di nuovo un trucco, cioè una roba, sì, vabbè, ma lo dobbiamo rappresentare così, però alla fine va bene tutto lo stesso. E da questa cosa qui, però, in realtà si intuisce un difetto, se così si può dire. In realtà non è un difetto, però una cosa che non tornava a un sacco di gente che ha studiato queste cose negli anni, cioè che tutti gli assiomi di Euclide, no, tornavano. In particolare, stiamo parlando dei primi 5, i primi 4 sembravano funzionare strabene, cioè sembravano proprio cose che erano intuitive. Uno diceva, boh, non può non essere così assolutamente. E il quinto però presenta delle problematiche. In primis le presenta perché è contorto. Cioè, mentre gli altri sono delle frasette che uno dice, cazzo, deve essere proprio così per forza, il quinto postulato è abbastanza arzigogolato. Ora io ve lo provo a leggere, se mi riesce di declamarlo con una, diciamo, in modo che sia comprensibile. Allora, cito, se una retta taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore di quella di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate all'infinito, si incontreranno dalla parte in cui la somma dei due angoli è minore di due angoli retti. E questo è il quinto postulato di Euclide. E tutti che lo leggevano dicevano, cavolo, però rispetto agli altri quattro è un bel casino, cioè è più complicato. E quindi erano nate tutta una serie di persone che dicevano, bah, però è strano che l'abbia fatto così contorto, e qualcuno aveva iniziato a mettere in dubbio che diciamo, che po potesse essere vero sempre. E per tacere queste, diciamo, queste malelingue, un signore, un gesuita, il signor Girolamo Saccheri o Saccheri, non lo so, decise di mettere i puntini sulle i, e scrive proprio un trattato che si intitola Euclide emendato da ogni neo. E questo l'ha fatto intorno al 1733, credo. Cioè, insomma, comunque si parla di quegli anni, quindi ancora un po' prima della fase da noi studiata. Però bisogna per forza risalire a queste cose qua per riuscire ad arrivare poi a metà dell'Ottocento. E ecco, cosa aveva fatto il signor Sacchi? Ha detto, vabbè, allora facciamo finta che questo quinto postulato non sia vero. E quindi facciamo delle ipotesi, cioè proviamo a ragionare per assurdo. Cioè, noi lo neghiamo, lo neghiamo, diciamo che non è così. E vediamo un po' cosa succede. Allora, in base all'enunciato di Euclide, sostanzialmente si intuisce che noi abbiamo tre casi, diciamo, di queste due rette, diciamo, intersecate da una terza. Ecco, noi possiamo avere sostanzialmente tre tipi di angoli che andiamo a prendere in esame. Uno è l'angolo retto, e se l'angolo è retto, allora torna, le due rette sono parallele. L'altra ipotesi è che l'angolo sia ottuso e quindi sia maggiore dell'angolo retto. L'altra ancora è che l'angolo sia acuto e sia minore dell'angolo retto. Ecco, Saccheri cosa ha fatto? Dopo sviluppiamo queste cose, cioè facciamo finta che valgono i primi quattro assiomi euclidei. Il quinto non vale, e vediamo un po' che casino salta fuori. Se ne nascono delle contraddizioni, cioè se creano un mondo assurdo, allora significa che il quinto postulato è buono e ce lo dobbiamo prendere così com'è. Ecco, facendo questa cosa qui, Saccheri in realtà pensava di aver dimostrato che il quinto postulato era buono, e in realtà, senza accorgersene, sostanzialmente aveva costruito la prima geometria non euclidea. Nel senso che ci fu chi, rileggendo queste cose scritte dal signor Saccheri, disse: boh, però a me mi sembra, poi uno la butta là, non è che è sicuro mai, però mi sembra che in realtà questo quinto postulato dipenda più da una questione di logica, da una questione di esperienza del mondo, cioè più da come guardo il mondo piuttosto che da una questione meramente logica. E questo l'aveva detto un signor matematico, il signor Klügel, che era un tedesco, e poi però non aveva tratto ancora delle grosse conclusioni, ecco. Però ci fu chi dopo di lui, e sostanzialmente parliamo di Lambert e Gauss, ne derivarono alcune interessanti conclusioni. Dicono: boh, però a noi sembra che se noi neghiamo questo quinto postulato delle rette parallele, ci costruiamo comunque delle geometrie che in alcuni casi sono coerenti, hanno perfettamente senso. Il problema è qual è? Che Gauss era una persona alquanto schiva e non gli piaceva sostanzialmente difendere le proprie tesi. E quindi lui là aveva tracciato già delle geometrie che sembravano ganze, dei sistemi che funzionavano, però siccome Kant sostanzialmente aveva messo nella sua opera di strutturazione gerarchica, cioè diciamo, di ordinamento del pensiero occidentale, di mettere tutto incasellato, eccetera, aveva detto: boh, la geometria euclidea deve essere valida per forza. Lui ha detto, Gauss ha detto: certo, se io però mi metto a dire che invece ce ne sono altre, poi tutti a dirmi e mi tocca poi andare a litigare con tutti i sostenitori di Kant, con un sacco di altri matematici e via così. E allora io non dico nulla. C'è invece chi aveva più la faccia come il culo, e nello specifico Lobacevski e Bogliai, i quali sostanzialmente svilupparono invece questa cosa delle geometrie non euclidee, e ne derivarono altre geometrie che si basavano appunto su un principio che è un po' comune a tutti quanti. Ora io cerco di semplificarlo anche per me stesso, perché altrimenti è difficilissimo andare avanti con questa trasmissione senza fare i disegnetti, e poi comunque se mi impelago troppo nello specifico fa anch'io una figuraccia, che sta roba qua l'avrei dovuta studiare mesi, invece l'ho riguardata in una settimana, e già appunto sono riuscito a registrare la trasmissione 4 volte, e in 4 volte mi sono accorto di aver detto minchiate e ho dovuto riprendere da capo. Quindi la facciamo più facile che riesco, a costo di tirare via le cose un po' per sommi capi, ecco. E sostanzialmente questi signori, appunto Lobacevski e Bogliai, si ponevano in un'ottica di dire: boh, però se noi non diamo per scontato che lo spazio sia piano, ma abbia una curvatura, capperi, queste geometrie non euclidee, ma descrivono perfettamente la geometria di quegli spazi. Ora, per rendere tutto più semplice, per esempio, noi consideriamo ad esempio un piano sferico. Ecco, sì, all'interno di un piano, di una sfera, sostanzialmente, se noi proviamo a tracciare delle rette, vediamo che non ci sono rette che non si incontrano mai. E quindi ci sono un sacco di rette che però non ci sono le parallele. E cavolo, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sostanzialmente che se lo spazio è curvato in quella maniera lì, questa geometria tende a essere parecchio precisa in questo caso. E con questo abbiamo creato una geometria, e in particolare la geometria ellittica. Sì, la geometria ellittica. La geometria ellittica è anche il caso che la curvatura dello spazio sia positiva, cioè l'angolo sostanzialmente ottuso, che era comunque un caso trattato dal signor Saccheri. Oppure l'angolo potrebbe essere acuto, e allora abbiamo, che cosa abbiamo? Una geometria iperbolica, così l'abbiamo chiamata, cioè la curvatura questa volta del piano è negativa, e abbiamo un'altra geometria che però torna, cioè nel senso che tornano tutti gli assiomi quegli altri, solo che il quinto non torna. E poi cosa abbiamo? Se la curvatura è nulla, allora abbiamo il piano euclideo, e funziona Euclide. Ora, perché a noi questa cosa ci frega piuttosto che no? È perché poi con l'andare del tempo, e con questo siamo già arrivati a 1850, cioè Lobacevski e Bogliai sono sostanzialmente di quell'epoca lì, più o meno, e cosa abbiamo? Che poi negli sviluppi successivi si è scoperto che per Baccolina effettivamente lo spazio intorno a noi è dannatamente curvo, anche, non solo, ma anche. Nel senso che se noi stiamo sulla Terra, effettivamente ci torna abbastanza la geometria non euclidea. Però la relatività generale del signore Einstein ci dice che lo spazio e il tempo possono essere curvi. Cioè la curvatura sostanzialmente è l'effetto della legge di gravitazione e di conseguenza cosa succede? Che la curvatura può variare a seconda da una posizione all'altra in base a come distribuiamo la materia. E quindi ora nello specifico della Terra, la geometria euclidea funziona bene alla scala umana, nel mondo nostro, dell'uomo, no? Dell'essere umano. Però se noi ci andiamo a vedere un po' là fuori nell'universo, che è ben più grande, in realtà prevalgono le geometrie non euclidee, e quindi insomma queste geometrie non euclidee sono comunque degli spazi abbastanza coerenti rispetto all'osservazione del mondo esterno, e quindi non c'è un motivo valido per cui esse non debbano avere un peso, anzi spesso ci aiutano a comprendere delle cose che sono più o meno al di fuori della, diciamo, della stretta esperienza della nostra Terra. Insomma, dove comunque la curvatura è piccola e non ci interessa. E con questo, cioè, cosa abbiamo capito? Allora, che sostanzialmente un salto di paradigma che mette in crisi parte del pensiero filosofico di allora, e in realtà va a abolire una sorta di dogma, cioè una verità che era considerata assoluta, cioè la geometria euclidea. E poi comunque diciamo che tutte queste geometrie poi si evolvono, nel senso che da allora, cioè da Lobacevski, poi un altro che non abbiamo citato ma è molto importante come personaggio che ha studiato anche queste cose, che è Riemann, che era un signor tedesco che poi ha tirato fuori delle cose parecchio toste, che magari un giorno ne parliamo anche meglio. Però sostanzialmente questa apparizione delle geometrie non euclidee assesta una specie di uppercut, un colpo decisivo alla fiducia, che però è abbastanza ingenua nella nostra capacità di prendere il reale così come lo intuiamo, no? E quindi anche un edificio che era durato per 1000 anni, quello della geometria euclidea, si poteva smontare e va un po' a minare l'idea che esistano degli assiomi veri di per sé, che sono in qualche modo indubitabili e autoevidenti. E questo perché è importante? Perché gran parte del pensiero poi scientifico da lì a seguire sarà attraversato da molte crisi. Che appunto si basano su tentativi di rigorizzare, di rendere rigoroso, di rendere estremamente preciso il pensiero scientifico, e poi c'è sempre qualcuno che arriva lì e li smonta e dice: è però, è però, è però. E tutti questi è però in qualche modo tracciano dei nuovi paradigmi, anche se ti lasciano un po' più nel dubbio, insomma, si stava più sicuri quando si pensava che tutto fosse secondo i dettami della geometria euclidea e punto. Non a caso ce li siamo tenuti per 1000 anni. Questo è anche interessante se uno volesse vederlo in prospettiva, cioè se uno guarda lo sviluppo scientifico, che noi oggi sembra un progresso infinito e sempre a salire, a salire, a salire. In realtà ci sono anche pensatori che dicono: boh, ma la storia, diciamo, della società tecnologica scientifica magari a un certo punto subisce un brusco arresto. Subisce un brusco arresto perché? Perché a un certo punto si arriva e magari ci assestiamo. Cioè, magari noi adesso sembra che tutto quanto va avanti, pam pam pam, pam pam pam, no? Cioè, internet qui e là, eccetera. Poi magari tra 100 anni siamo sempre alle stesse cose, perché non riusciamo a andare oltre. Magari per 1000 anni va avanti tutto così. Poi chi lo sa? Insomma, magari subisce anche tutto un brusco arresto perché c'è una guerra termonucleare globale, oppure perché ci autoestinguiamo. Che ne sai di come vanno a finire le cose? Ecco, e con questo botta di ottimismo, che comunque è ottimista, perché a me mi spaventa quasi di più pensare che ci sia un progresso inarrestabile e indefinibile che va sempre verso l'alto, che non si capisce dove va. Mi piace di più pensare che magari invece le cose vanno. E chi lo sa come vanno le cose? Eh? Chi lo sa? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. E questa settimana la mia attenzione per le cose informaticose non è stata tanto attratta da qualche progetto super tecnico come nelle settimane scorse, ma da due notizie di cronaca che però sono interessanti per riflettere un poco su l'architettura attuale di internet e in particolare del web. Si tratta di due cose accadute a due grossi attori del mondo webboso internettoso attuale, uno è Amazon e l'altro è Yahoo. Si tratta di due attacchi che hanno subito, che secondo me mettono bene in evidenza come la struttura attuale del web, basata su grossi attori che gestiscono in qualche modo i dati di tutti quanti e offrono servizi gratuiti o meno ai più, i più nel senso proprio di tutta l'Occidente e anche oltre, e ha in realtà delle evidenti pecche. E il primo è una cavolata, però è successo ad Amazon e in particolare alla loro architettura di cloud, questa parola che va un sacco di moda ultimamente, che è per quello che viene detto normalmente un typo, cioè qualcuno che ha sbagliato a scrivere un comando, l'ha scritto male. Un qualche tecnico di Amazon che durante una fase di debug della loro infrastruttura sostanzialmente ha digitato male un comando e questo ha seduto completamente la loro infrastruttura per circa 5 ore, non tutta l'infrastruttura ma molta, cioè milioni di utenti e di servizi che loro e i servizi relativi a questi milioni di utenti che loro offrivano. È stata giù per diverse ore e la cosa interessante è che il problema è stato in primis il typo, ma anche il fatto che l'infrastruttura era talmente grande che riavviarla tutta ha implicato un down di 5-6 ore. È abbastanza buffo, quindi che questa infrastruttura sulla quale gli utenti contano hanno anche pagato qua, a seconda del servizio, cifre più o meno grandi per averla sempre disponibile, no? E questo è il cloud, cioè dai tuoi dati loro li tengono là nella nuvola, ecco, e questi dati se loro si sbagliano spariscono e non ci sono più. L'altra notizia, sempre del tenore simile, questa è accaduta a Yahoo, che ha recentemente rivelato che 32 milioni di account, è una cifra stimata a caso, ma così dicono i loro esperti di sicurezza, sono stati violati tra il 2015 e il 2016 utilizzando un attacco che loro qua definiscono sofisticato, probabilmente dal loro punto di vista lo è, in realtà concettualmente è abbastanza semplice da capire, è un attacco che si basa sui cookie. I cookie, così ve lo spiego, anche facciamo un po' di divulgazione relativa a come funziona il web dietro le quinte, è utile sempre ribadire, così lo sapete anche voi, quando voi visitate un sito. Perché questo, diciamo, il servizio che vi venga offerta sia user friendly e adeguato e sempre più bello e comodo da usare, è possibile che alcuni dati vengano salvati sulla vostra macchina, diciamo, sul computer che state utilizzando per rendere l'esperienza di navigazione più semplice, in particolare. A questo servono anche i cookie. Nel momento in cui voi cliccate ricorda la password, ricorda questo account, non ti sloggare da qui perché è comodo, così non dovete riscrivere la password. Quando riaprite il browser, riaccendete il computer, vi ritrovate direttamente quando visitate la vostra webmail su Yahoo, direttamente loggati, non dovete rimettere la password. E questo funziona attraverso appunto questo meccanismo dei cookie, che non è nient'altro che un file di testo con delle cose scritte. Una di queste cose è una specie come dire, di segreto, diciamo, che consente a Yahoo di riconoscervi in quanto possessori di quell'account e quindi non vi chiede più la password, perché voi ci avete l'equivalente della password, cioè il segreto, quindi siete voi. Se non fosse altro che, supponiamo che io sappia come forgiare questo cookie ad hoc, a quel punto io, anche se non sono veramente l'utente che possiede quella mail, a Yahoo mi presento esattamente come quell'utente e quindi entro senza bisogno di mettere alcuna password. A quel punto sono dentro l'account e così facendo. Qualche hacker che Yahoo definisce come State Sponsorized Actor, cioè un hacker probabilmente sponsorizzato da qualche stato, non si dice quale, però di solito quelli citati di più sono sempre la Russia e la Cina, ha così sottratto circa 32 milioni di ha violato 32 milioni di account, sottraendo dei dati che andavano dal vabbè, nome utente, il nome riferito a quella particolare mail, le date di nascita, varie ed eventuali domande per il recupero della password e altre cose di questo tipo. È molto interessante il fatto che questo tipo di attacco, secondo Yahoo, provenga in realtà da una fuga di notizie, cioè loro dico ci hanno rubato, qualcuno dall'interno ha fatto sapere come noi generiamo quel cookie, visto che diciamo quello che protegge sostanzialmente questo meccanismo è sostanzialmente la segretezza di come viene fatto, per cui io non lo so rifare come piace a Yahoo e quindi non lo posso rifare io da zero. Però se qualcuno da dentro mi dice fai così e cos'ha, io a priori, cioè senza, diciamo, non a priori, ma senza conoscenza della password dell'utente, sono in grado di forgiare questo cookie e quindi presentarmi come lui al signor Yahoo, che poi dice va tutto bene perché il cookie è quello buono. E di conseguenza cosa accade? Che sostanzialmente il servizio mi riconosce come l'utente legittimo e mi fa fare un po' quello che mi pare impersonando questo utente. Questi due episodi, secondo me, chiariscono abbastanza bene come l'infrastruttura estremamente alla fine centralizzata che ha preso mai internet, centralizzata non per la struttura, diciamo, dell'internet in sé, ma per il fatto che i grossi attori che ci sono dentro diciamo, collezionano e fanno convergere su di sé i dati di miliardi di persone, e ha questo piccolo difetto che poi nel momento in cui la singola infrastruttura viene violata, io sto compromettendo esattamente il miliardo di utenti che poi ho. Questa cosa era già accaduta nel 2013, nel senso che Yahoo aveva già avuto un furto, diciamo, aveva già accusato la violazione appunto di 1 miliardo di utenti di Yahoo, e a cicli periodici questa cosa accade anche con altre strutture, e quindi dal mio punto di vista in realtà è tutto abbastanza buffo, nel senso che rende bene la fragilità di quello che stiamo andando a costruire, anche se non è affatto chiaro né semplice come costruire qualcosa di diverso, perché questi grandi attori appunto del web non è che se ne vanno di loro spontanea volontà. Cioè, quello è il business e loro lo vogliono fare. Ecco. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. E non poteva mancare questa settimana un accenno al leak della CIA. Wikileaks ha infatti pubblicato questa settimana la prima parte, così dicono, di una serie di documenti che farebbero capo a un progetto che loro definiscono Vault 7, che sostanzialmente sembra una serie di tool, di tecniche, di boh, chi lo sa, che la CIA utilizza in quella che è lo scenario attuale di quella che i politici definiscono cyber war, cioè questa guerra sotterranea che gli stati combattono a botte di hacker e attacchi informatici. L'archivio che è stato rilasciato è solo una parte, pare ci saranno altri rilasci, è denominato Year Zero e sostanzialmente è stato sottratto dalla CIA, da qualche fonte interna e riguarda, diciamo, presenta quello che è l'arsenale digitale della CIA. C'è da Diciamo da rilevare che in tutto questo non sembrano esserci cose particolarmente nuove, cioè che già non si poteva sospettare avvenissero. È comunque interessante perché sembra che la CIA sostanzialmente si sia attivata per competere direttamente con la National Security Agency e sviluppare un proprio arsenale d'attacco che quindi fa. Diciamo che utilizza un po' a piacere e quindi senza doversi probabilmente coordinare con l'NSA, da qui forse si vede una certa rivalità tra le due agenzie. Certo, comunque non è che è una rivalità assoluta, ci sono anche diciamo, le prove, diciamo, nei tool che vengono citati alcune volte si fa riferimento appunto a esploit malware o comunque a tecniche che vengono condivise tra le varie agenzie, non solo quelle americane, ma dentro ci sta anche il servizio segreto britannico. Quello che emerge da questi documenti, che comunque sono tanti, e quindi non si è, almeno io ci ho dato un'occhiata al volo, però cioè, dovrei dedicarci almeno un mese a guardare tutta sta roba. Diciamo, da quello che si intuisce leggendo un po' i vari articoli di commento che sono apparsi un po' ovunque su quotidiani nazionali e non, sembra che questi signori della CIA abbiano una bella collezione di exploit, cioè di tecniche per sfruttare dei bug di sicurezza di un sacco di piattaforme. Tra queste si parla, vabbè, delle vari apparati della Apple, poi vabbè, si citano un po' tutti, Android, Windows, Linux, di tutto un po'. Si citano le smart TV e questo ha fatto un sacco presa sui quotidiani, ecco, questa cosa che la tua smart TV possa essere diciamo comandata all'esterno dalla CIA e quindi trasformata in un microfono o in chissà cos'altro. E si parla anche di violare la cifratura di WhatsApp, Signal e Telegram, però questa è una bufala, chiaramente. Nel senso che come viene posta almeno è una bufala, perché si fa riferimento a exploit che diciamo bucano, cioè si installano software malevolo su apparati tipo smartphone e cose simili e quindi prendono diciamo l'audio alla base, cioè prima che venga cifrato dalle varie app. E diciamo, da questo punto di vista, cioè, gli attacchi non vanno diciamo, a inficiare i meccanismi crittografici, ma semplicemente si mettono prima e quindi li saltano. È senz'altro una cosa inquietante, però è meno inquietante o almeno non va a a intaccare, diciamo, i meccanismi di cifratura di per sé, quindi è un'inesattezza. Che riportano i giornali, ma in realtà è un'inesattezza, probabilmente è che Wikileaks l'ha messa giù in maniera un po' tirata via, e comunque diciamo, probabilmente ci saranno verifiche incrociate su tutto questo materiale, quindi sarà possibile capire un po' meglio le cose che sono più interessanti da citare, più buffe, è che molti dei nomi di questi codici, cioè di questi tool, sono nomi abbastanza buffi, come ci aveva già abituato comunque diciamo il leak di Snowden sulla National Security Agency. In particolare a me ha colpito Weeping Angel, che è una citazione, mi sembra, sì, è una citazione del dottor Wu. Lo è una citazione del dottor Wu, e poi, diciamo, in generale i nomi fanno, diciamo, si riferiscono spesso all'immaginario addirittura dei videogiochi. Abbiamo un Filosoraptor, no, Filosofo Raptor, scusate, e abbiamo un dottor Boom. E poi abbiamo, oh sì, una collezione di emoticon che sono veramente belline belline da vedere, e cercatevele, sono veramente su cose su cose. Mi sa che le trovate tipo su vice.com, su Motherboard, ne hanno messe diverse, sono buffe, si va dalla faccina con la lingua di fuori, dalla faccina arrabbiata. E sono veramente carine carine, e insomma, questo leak, diciamo, non ci dice nulla di nuovo, è però una bella figuraccia della CIA, e quindi ve la riportiamo un po' così com'è. Poi nelle prossime puntate magari cercheremo di approfondire qualche tool particolarmente succoso. Ah, un'altra cosa che ha fatto abbastanza scalpore è che la CIA ha dei tool per provare a controllare le centraline delle macchine collegate ad internet, cioè sostanzialmente qualsiasi cosa venga collegata alla rete, e loro provano a bucarla, perché in effetti non si sa mai cosa ti può servire. È meglio stare preparati a tutto, e quindi niente, la CIA si aggiorna, noi ne prendiamo atto, anche se non è che pensavamo, insomma, che stessero a guardare. È interessante lo scenario geopolitico, comunque, che nello scenario geopolitico attuale diciamo la cosiddetta cyber war abbia preso così piede, tutti tentino di attrezzarsi in questo senso, delinea una visione di internet decisamente preoccupante, o meglio, non preoccupante, ma sicuramente non internet come quella, diciamo, quella mente collettiva di conoscenze che era un po' l'utopia di molti invasati di internet degli anni 70-80. Sembra più un internet come estensione degli scenari di guerra e della geopolitica, diciamo, degli stati-nazione, e quindi nulla, rileviamo questa cosa, e così ve la riporto. Ora, nelle prossime puntate senz'altro torneremo a parlare di questa cosa, datemi il tempo di darci un'occhiata un po' meglio. E quindi niente, vi saluto per questa puntata di Coccoli al Silicio, finisce qua, se no poi sfori i miei 40 minuti e da Radio Wombat mi castigano, io non voglio essere castigato, e quindi vi saluto a tutti. Ciao. Secondo lei, perché dovrei lavorare per la National Security Agency? Beh, ti troveresti a lavorare in prima linea. Avresti a che fare con un genere di tecnologia che non vedresti altrove perché l'abbiamo classificata segreta. Teoria della superstringa, matematica del caos, algoritmi avanzati. Decifrare codici. È uno degli aspetti del nostro lavoro. Oh, avanti, è questo il vostro lavoro, ragazzi. Fate l'80% della roba dell'intelligence. Siete almeno 7 volte più grandi della CIA. Non amiamo vantarci di questo, Will. Ma hai perfettamente ragione. Perciò, per come la vedo io, la domanda non è perché dovresti lavorare per l'NSA. La domanda è perché non dovresti. Perché non dovrei lavorare per l'NSA? E questa è tosta. Ma provo a buttarmi. Diciamo che lavoro all'NSA e mettono sulla mia scrivania un codice che nessuno sa decifrare. Forse ci provo e magari ci riesco. E sono fiero di me perché ho fatto bene il mio lavoro, ma forse indica la località di un esercito ribelle in Nord Africa o in Medio Oriente. Ottenuta la località, bombardano il villaggio dove i ribelli si nascondono. 1500 persone con le quali non ho mai avuto problemi restano uccise. Ora i politici dicono, oh, spediti Marines a sorvegliare la zona perché non gliene frega niente. Non ci sarà un loro figlio a farsi sparare come non c'erano loro quando era il momento perché erano in gita nella Guardia Nazionale. Ci sarà un tipo di Saudi a prendersi una sventagliata nel sedere. Torna in patria per scoprire che la fabbrica in cui lavorava è stata esportata nel paese da cui è arrivato. E quello che gli ha sbrindellato il culo ora sta al suo posto e lavora per 15 centesimi al giorno e non va mai a pisciare. Nel frattempo capisce che la ragione per cui l'avevano mandato a combattere era installare un governo che ci avrebbe venduto il petrolio a buon prezzo. Ed è chiaro che le compagnie hanno usato quella scaramuccia lontana per addomesticare i prezzi, un aiutino notevole per i loro profitti, ma non aiuta il mio amico a $2.50 a gallone. Ci vanno con molta calma a reimportare il petrolio, magari si prendono finanche un alcolizzato skipper a cui piace bere martini e fare pazzi slalom tra gli iceberg. Finisce che quello ne c'entra uno, sparge il petrolio e uccide la vita del Nord Atlantico. Così il mio amico ora è senza posto, non può permettersi l'auto e va a piedi a fare i colloqui di lavoro e si sfrange perché la sventagliata nel sedere gli ha procurato le emorroidi. Nel frattempo muore di fame perché ogni volta che cerca di mangiare la sola prospettiva è un merluzzo del Nord Atlantico intriso di petrolio salato. Allora cosa ho pensato? Mi conservo per qualcosa di meglio. Ci rifletto, cazzo, mentre aspetto, perché non uccido il mio amico? Gli frego il posto, lo do al suo peggior nemico, alzo i prezzi della benzina, bombardo un villaggio, ammazzo le foche, fumo hashish e vado nella Guardia Nazionale. Potrei essere eletto presidente.